prigioniero in questa stanza di un sogno ormai svanito. Sento un nodo nella gola, non riesco a respirare. Sono come appena nato, mi batte forte il cuore. La mia vita, ma che vita, non esiste senza lei. Era lei, la mia forza, lei, il mio destino, lei, il fuoco che avvampa dentro me. E non posso scordare quel sorriso sincero, sempre allegro, sempre vero, vero, sempre vero, vero. È passato quasi un anno, ma non ho dimenticato quell'abbraccio così caldo mentre volavi via. La siringa tra le dita, i capelli sulle spalle, il suo viso così strano e quel lago nella pelle. Era lei, la mia forza, lei, il mio destino, lei, il fuoco che avvampa dentro me. Era lei, la mia forza, lei, il mio destino, lei, il fuoco che avvampa dentro me. E non posso scordare quel sorriso sincero, sempre allegro, sempre vero, vero, sempre vero, vero.